La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, buon mercoledì 16 di settembre, qui sono le 16.32, primi 4 secondi, Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazio in diretta qui dagli studi di Milano di Radio 24. E vado subito al tema del giorno, oggi tentiamo di riflettere un pochino su quello che a mio giudizio è la più grave, davvero la più grave crisi europea, altro che finanza pubblica, altro che Grecia, quella che si è scatenata in queste ultime settimane con i due annunci unilaterali, per così dire, della Germania. Stiamo parlando naturalmente dei profughi e dell'immigrazione, quella settimana fa che ha fatto tutti intonare canti di entusiasmo quando la Germania unilateralmente, senza avvisare gli altri paesi europei, ha dichiarato la propria disponibilità ad accogliere pienamente profughi, cioè coloro che hanno diritto d'asilo, in particolare siriani, ma insomma siriani ed eritrei, sottovalutando, come si è visto nelle due settimane successive, le conseguenze che questo aveva sia per i paesi alle frontiere esterne dell'Unione Europea, sia per i paesi di transito. E poi con questo fine settimana, con la marcia indietro, diciamo, innestata altrettanto ruvidamente unilateralmente dalla Germania, poiché alla consapevolezza che le quote di ripartizione, dopo i 32.000 decisi a giugno, che diventavano molto più numerosi, 140.000 dei diversi paesi europei, per sempre stiamo parlando dei profughi e degli asilanti, a questo punto ha detto: sì, sapete che c'è, a questo punto chiudiamo le frontiere, sospendiamo Schengen anche noi, e così la pressione che resta a voi paesi esterni di transito sarà tale che dovrete capire che le quote le dovete accettare, altrimenti, hanno anche aggiunto, sanzioni immediate finanziarie per chi si sottrae. Sapete che lunedì il vertice dei ministri dell'interno è andato diversamente da come si aspettavano i tedeschi, non c'è stato nessun accordo in realtà sulle quote, anzi oggi le quote sono abbandonate in un angolo, per così dire. Quello che è avvenuto è che c'è stata un enorme ritorno di fiamma in tutti i paesi di fronte a questo atteggiamento tedesco, e quello che è avvenuto è non solo che paesi che sin dall'inizio erano molto contrari rispetto a questa posizione tedesca, i quattro paesi centro-orientali del blocco di Visegrad e innanzitutto l'Ungheria di Orbán restano sulla loro linea del no, ma in due giorni abbiamo assistito a governi che in poche ore erano costretti ad adottare ciò che per mesi erano solo i partiti, diciamo così, che su questo sono contrari in ogni paese, quelli che poi si definiscono populisti, a imboccare, cioè la chiusura delle frontiere, Schengen, l'annuncio del rafforzamento alle frontiere interne, dei dispositivi di sicurezza, chi addirittura anche l'esercito. Abbiamo visto l'Olanda che ha chiuso le frontiere, i problemi tra Austria e Germania. Intanto le reazioni dei muri va avanti, l'Ungheria da ieri non solo ha cambiato leggi e ci sono 3 anni di carcere per chi entra senza autorizzazione, ma ha terminato la reazione del muro con la Serbia e ha annunciato un nuovo muro al confine con la Romania. E in tutto questo la situazione sembra sfuggita di mano. Sembra sfuggita di mano anche perché la politica tedesca dall'interno, dopo i primi giorni di entusiasmo per la posizione della cancelliera, ha iniziato a vedere presidenti dei Länder dire che loro non ce la fanno, la Baviera sin dall'inizio, ma poi la Renania. Ha iniziato a vedere crescere sempre di più il tono dei ministri federali. Il ministro dell'interno De Masiere è stato durissimo anche nei confronti dell'Italia, dicendo: qui ci sono dei paesi che approfittano della posizione tedesca. Insomma, tutto sembra abbastanza sfuggito di mano. Ieri incontro tra la cancelliera tedesca e il premier austriaco per tentare, almeno nei rapporti bilaterali tra i loro due paesi, di migliorare le cose, l'annuncio della richiesta di un nuovo vertice il 22 di settembre, un Consiglio europeo straordinario, ma insomma mi pare che le condizioni restano lontane dall'aver capito alcune cose, e cioè che una proposta solo sui profughi, questa è la mia opinione, adesso passo poi, do la parola agli ospiti e finisco questa mia introduzione, la mia personalissima opinione è che occorre una struttura verticalmente integrata comunitaria che dalle frontiere esterne, cioè dalle coste italiane per gli sbarchi, attraverso il transito, nei paesi di transito, a quelli di destinazione per i profughi, sia comunemente gestita e con risorse adeguate. Mi sembra, seconda cosa, incredibile che l'Europa dal 2002, quando ci fu un'ondata di inondazioni in Germania e Centro Europa, si è dotata di un fondo speciale, autonomo, per fronteggiare le catastrofi naturali e non capisca che di fronte a milioni, perché queste sono le cifre vere, di migranti che vogliono venire in Europa, non abbia un fondo ad hoc per le catastrofi umanitarie. Che senso ha un'Europa che ha un fondo per le inondazioni e non per quelle inondazioni umane? Terza cosa, se continuiamo a pensare solo ai profughi, dimentichiamo che per i paesi esterni come l'Italia il più del flusso riguarda i cosiddetti migranti economici. Cosa facciamo? Ci dimentichiamo che ai fini della sostenibilità economica, del bilancio demografico, della integrazione di capitale umano e così via, è necessario anche affrontare finalmente anche questo problema? A me sembra impensabile, a dire la verità. Ecco, queste cose non ci sono nel dibattito europeo, che resta fermo al, facciamo degli hotspot comunitari, come si chiamano, cioè dei centri che fin dai paesi di sbarco come l'Italia o di primo ingresso nelle frontiere europee identifichino tengano ordinatamente anche la prima accoglienza per i profughi solo ai paesi destinatari. L'Italia su questo ha detto al tavolo lunedì europeo: guardate che o c'è un accordo immediato contestuale sia per le procedure di respingimento e di rimpatrio sia per il passaggio ai paesi di transito, oppure questo sistema cosa lo attiviamo a fare? A me sembra una posizione di buon senso, a dire la verità. Ecco, questo è lo stato delle cose a oggi. È difficile immaginare che cosa capiterà di qui al 22. Quello che è evidente è che la chiusura del corridoio centroeuropeo, effetto di questa, ancora di più, della seconda svolta tedesca del fine settimana, se credete che abbia l'effetto di fermare l'ondata, secondo me vi sbagliate, perché il problema è che semplicemente la reindirizza verso i paesi di più facile accesso. Quindi il rischio è che noi non siamo esposti a 200.000 sbarchi, come erano le cifre proiettate sull'anno a fine luglio, ma che diventino 300.000, e tutto questo come effetto di una politica di annunci unilaterali che secondo me è stata disastrosa. Davvero, vedere misure adottate in pochi giorni dai governi europei alle frontiere interne, che nel secolo scorso venivano adottate solo in preliminari di conflitti bellici, è una cosa che a me ha lasciato atterrito. Questa è la vera cosa. Chiedo anche agli ascoltatori di telefonarci, non solo per dirci la loro opinione, ma siccome poche ore fa il presidente di Confindustria ha rilasciato una dichiarazione che domani vedrete accenderà il dibattito sul giornale tra favorevoli e contrari, di solito Confindustria non dichiara su queste vicende, il presidente di Confindustria, rispondendo a un giornalista, ha detto: no, ve lo voglio dire chiaro, oggi l'immigrazione non è un'emergenza per l'Italia, non è anzi un problema economicamente che io considero prioritario. Per me la priorità è dare lavoro agli italiani, quindi diciamo le cose come stanno. È stato molto duro, infatti è piaciuto subito a Salvini, il giornale ci ha pressito e così via. Diteci come la pensate se ci telefonate. Ma intanto i nostri ospiti. Abbiamo con noi Tonia Mastrobuoni, che è la corrispondente della stampa da Berlino e che in questi giorni ha ricostruito giorno per giorno, anche ora per ora con i Twitter, l'evoluzione della posizione tedesca, e che se non sbaglio adesso è proprio, sta accompagnando, per così dire, per informarci poi dei profughi a Salisburgo verso la Germania. È così? Buon pomeriggio innanzitutto e grazie a Tonia. Buon pomeriggio a voi. Sì, questo è l'ultimo miglio, diciamo, per centinaia, anzi migliaia di profughi che sono arrivati fin qua attraverso una mezza dozzina di paesi, che hanno percorso migliaia e migliaia di chilometri. Quindi secondo me non è neanche troppo sorprendente che, arrivati a questa stazione di Salisburgo, ora mancano da qui, insomma, ci sono una decina di chilometri fino alla frontiera. Io ho fatto avanti e indietro, è ovvio che lo fanno a piedi. Ho visto profughi, insomma, naturalmente stremati, ma finalmente sono arrivati alla loro destinazione, quindi si mescolano impressioni molto, molto forti, perché naturalmente stanno camminando in parte lungo i binari con bambini alla mano. È una cosa abbastanza straziante, ma ho visto anche un gruppo di ragazzi che si faceva un selfie a pochi metri dalla frontiera, probabilmente per comunicare ai cari in Siria o in Iraq eccetera che sono arrivati e, quindi però devo dire che qui l'organizzazione è assolutamente impeccabile. Stanno accompagnando dai treni che arrivano da Vienna, da altre parti dell'Austria, o li stanno accompagnando sostanzialmente degli autobus a dei centri di prima accoglienza. Però ripeto, siccome qui siamo proprio alla frontiera, non ci vuole rimanere nessuno. Ripartono, cioè prendono e vanno a piedi fino alla frontiera. Questo è il primo dato. Il secondo dato, che fa una tristezza immensa, Oscar, è naturalmente vedere alla frontiera tra Austria e Germania, nel cuore dell'Europa, ripristinati i controlli. Esatto. Cioè siamo all'inizio della fine di Schengen. Sì. Questo è il grosso tema secondo me oggi, perché un conto è dire va bene la frontiera tra Serbia e Ungheria, ne abbiamo parlato sempre in questi giorni, ma la cosa veramente più triste è vedere oggi hanno bloccato tutti i treni per la Germania dall'Austria. I treni austriaci praticamente girano solo nel paese. Ripeto, saltare Schengen, cioè ritornare ai controlli nelle frontiere, ripeto, fino a due settimane fa erano posizioni di partiti come il Front Nazionale in Francia, delle Le Pen, Salvini e così via. I governi l'hanno adottata in pochi giorni per quello che è successo. Presento anche il secondo ospite che è con noi per aiutarci a capire qual è la sua valutazione sullo stato dei rapporti di questa Europa su questa crisi gravissima, il professor Vittorio Emanuele Parsi, che insegna relazioni internazionali alla Cattolica di Milano e scrive anche per il Sole 24 Ore. Grazie di essere con noi, professor Parsi. Buongiorno. Posso chiedere a Tonia, prima di tornare da lei, qual è la sua valutazione? Ieri c'è stato un incontro, credo ieri sera, tra la cancelliera e il presidente dei Länder tedeschi, che avevano iniziato a mordere il freno, e naturalmente i giornali italiani non hanno fatto in tempo a dare notizie di questo sviluppo interno della politica tedesca. Come stanno le cose in realtà rispetto a questa retromarcia di indurimento della cancelliera nei suoi rapporti con la politica interna e con i Länder? Allora, la verità è che Merkel in qualche modo domenica ha messo fine a un conflitto che stava, a due conflitti che stavano montando enormemente, uno dentro il suo partito e l'altro dentro nel rapporto appunto tra governo e Land, che giustamente tu sottolinei perché è importantissimo. Sappiamo che dall'inizio del mese ad oggi, in soli 15 giorni, sono arrivati oltre 60.000 profughi a Monaco di Baviera, e quindi Monaco di Baviera è una città governata dall'SPD, è una enclave rossa, tra virgolette, da sempre, dentro una regione nerissima, certo, cioè la regione della CSU, quindi dell'ala più conservatrice della Union di Angela Merkel. Allora, quelli che hanno fatto più casino però sono proprio i politici della CSU e la regione Baviera, perché la regione Baviera sostanzialmente dice: dovevamo distribuire l'onere attraverso una chiave che vale per in Germania c'è un sistema ovviamente molto preciso per di distribuzione anche dei profughi, che al momento non è rispettato perché molte regioni molti Land si sono mostrati resti, la Baviera ha dovuto supplicare di prendere questi profughi. I più virtuosi al momento sono il Nordrhein-Westfalia e la stessa Baviera, però ecco, il problema è che non possono assorbire loro a caricarsi troppo. Esatto. Quindi uno è questo. Un secondo motivo di polemica è che fino a poco tempo fa la Germania aveva totalmente sottovalutato il problema. Ricordo che a maggio la stima espressa dal ministro degli interni era 450.000, cioè adesso siamo a 1 milione. E il problema è quindi anche che le regioni non erano preparate a questa ondata enorme. Terzo motivo, dentro la CDU, i malumori eccetera, ma io ho parlato con un politico cristiano democratico di altissimo rango l'altro ieri, che mi ha detto: il problema è che Merkel ha prodotto un effetto aspirapolvere. Quando lei è andata in televisione e l'hanno vista in tutto il mondo, perché purtroppo queste cose ormai naturalmente circolano attraverso i social media, attraverso anche le televisioni di questi paesi. Venite, esatto, ha detto più volte, no? Ha detto ce la facciamo, possiamo prendere 800.000 profughi, e questo ha avuto veramente una sorta di effetto sifone, per cui si sono messi in marcia centinaia di migliaia di persone. Ieri, secondo uno dei più autorevoli giornali quotidiani austriaci di Presse, sono in marcia nei Balcani 200.000 persone, 200.000. Quindi voglio dire, questi sono i numeri. Allora, ma il problema è come sia stato possibile immaginare entrambe le prese di posizione tedesche in due settimane. Venite, E poi chiudiamo, se non capite che dovete voi organizzarvi per farli passare, visto che noi li vogliamo prendere, senza immaginare le conseguenze che questo scatenava, perché questo mi pare un dato di fatto. I tedeschi sono così precisi, così rigorosi, io li difendo sull'economia, però questa è veramente una cosa che mette in un'ondata, in un esodo biblico di proporzioni tragiche di per sé, un fattore di accelerazione e di far esplodere i problemi all'interno dell'Europa, che a me sembra veramente, se non fosse di questi giorni, a una descrizione ipotetica avrei detto ma figuriamoci, mica i tedeschi sono matti. E io purtroppo rimango senza una risposta a questa domanda, e quindi ripartiamo col professor Parsi e poi torniamo con Antonio Mastroboni per sentire loro cosa dicono su questo e soprattutto qual è la loro valutazione di quello che può avvenire di qui al 22 di settembre. Intanto strade. La versione di Oscar. Eccoci tornati qua in diretta alle 16.48, primi 50 secondi. Intanto immagini delle TV internazionali rilanciano le forze dell'ordine ungheresi che usano gli idranti al di là del muro che eretto ai confini con la Serbia, nei confronti di chi preme dall'altra parte del muro metallico. E ci eravamo lasciati su una domanda: possibile davvero che i due annunci naturali tedeschi avessero sottovalutato così pazzescamente gli effetti? Uno, venite, l'effetto aspirapolvere, e secondo, l'esplosione delle divaricazioni delle posizioni europee. E partiamo con questa domanda al professor Parsi: che pensa lei? Okay, ho cercato di spiegare poi nell'articolo di stamattina per il Sole, cioè, sicuramente c'è stato un errore nella comunicazione in quel modo della disponibilità tedesca ad accogliere tutti i profughi. Dopodiché però va anche detto che in questo va inquadrato una sospensione di Schengen. La Germania sostanzialmente aveva detto di essere disposta a fare certe cose in un quadro in cui gli altri paesi facessero la loro parte. E questo vale anche per Schengen, cioè nel momento in cui le frontiere europee non sono più affidabili, perché non siamo in grado di dire chi entra e chi esce, sarebbe completamente privo di senso che all'interno dell'Unione non venissero rimesse in azione le frontiere domestiche per cercare lì di provvedere all'identificazione delle persone, perché non va dimenticato che Schengen è nato in quel contesto, certo. Cioè in un contesto in cui nessuna minaccia di nessun tipo, nessun problema di nessun tipo si palesava ai confini europei. Questo non è più così, quindi questo è l'elemento. E anche per questo io non penso che la Germania abbia fatto una marcia indietro, semmai la Germania ha ribadito un punto: noi siamo disposti a fare molto a condizione che tutti facciano qualcosa. La domanda che le faccio su questo, io sarò un ottimista a pensare che però ai paesi, per farli cooperare bisognava dargli, ripeto, io dico c'è un fondo per disastri, non c'è un fondo per disastri umanitari, c'è solo per i cataclismi. Se pensiamo agli hotspot, allora ci vuole una procedura europea, cioè una specie di extraterritorialità europea sia ai confini esterni, sia in quelli di transito, sia nei paesi destinatari, invece che di chiedere ai paesi di cooperare ciascuno con le sue diverse e più o meno limitate risorse. Io sono d'accordo con lei. In questo senso che bisognerebbe cercare di vedere appunto non questi hotspot, questi controlli come una sottrazione di sovranità ai singoli paesi, e infatti i singoli paesi a questa posizione che fino a questo momento si sono tutti opposti, compresa l'Italia, esatto. Le forze di polizia italiane hanno detto no, facciamo noi, perché non possiamo commissariare i paesi. Però invece andrebbe colto per trasformare la frontiera comune in un'effettiva frontiera federale, esatto. In cui insieme le forze di polizia congiunte o dei contingenti che vengono, diciamo così, dislocati in una forza congiunta procedono a questa identificazione, a questo tipo di lavoro. Ed è ovvio, su questo sono d'accordo con lei, che servirebbe un fondo comune. Non è un caso però, come lei ricordava, che il fondo per i disastri naturali è stato istituito dopo che in Europa centrale, in Germania, in Germania, delle alluvioni. Non mi sorprenderebbe se oggi, dopo i flussi in Europa centrale, in Germania, la questione è sollevata. Non era neanche un caso che la questione dell'immigrazione, fino a quanto riguarda la Grecia e Italia, dovevano scambiare loro. Esatto. Quando è arrivata la Germania, è diventato un problema europeo. Però io le chiedo, professore, a questo punto, visto che il più dei flussi degli sbarchi in Italia sono quelli che chiamiamo migranti economici, insomma non ricadono in paesi per cui deplano nel diritto internazionale c'è la concessione dello status di asilo, che poi insomma è la Siria, l'Eritrea, pochi altri paesi da noi, la maggior parte dei flussi riguarda provenienza da altri paesi. È egoismo se l'Italia chiede a questo punto di considerare al pari dei profughi il problema dei migranti economici? Io dico di no, ma altri dicono di sì, mi rispondono dicendo no, sono due cose diverse. Penso che sia egoismo, penso che sia il problema più difficile da trattare, esatto. Come diceva, ma perché mentre il flusso dei profughi è un flusso patologico, la guerra non è una condizione normale del sistema internazionale. Invece nel sistema economico internazionale ormai i grandi movimenti di capitale, i grandi movimenti di persone sono un dato fisiologico, per cui noi ci attrezziamo rispetto a questa eventualità, che oggi può essere il respingimento, io discorrendo perché non hai, diciamo così, un diritto, però non puoi nasconderti il fatto che hai un bisogno molto forte, una necessità, per cui in qualche modo il problema è gigantesco da affrontare perché riguarda uno squilibrio nel sistema economico internazionale che evidentemente va corretto, è difficilissimo farlo, quindi fa bene a sollevare il problema, questo è il problema non solo per noi, per una vastissima fascia dei paesi europei, però per noi lo è da anni, e quindi io sono molto contento che il professor Parsi dica che non è egoismo, bisogna valutare i problemi in ballo per quello che sono. Allora ringrazio il professor Parsi, andiamo alle vostre telefonate. Antonio da Como, Antonio come la pensi? Sì, ciao Giannini, sono del tu. Non so se posso fare una domanda, se qualcuno ha già fatto, ma voglio chiedere una volta per tutte, anche a me sono concesso che un milione di famiglie in Italia voglia ospitare un immigrato, poniamo il caso. Una volta avuto questo milione, le altre persone che arriverebbero dopo, cosa dobbiamo fare? No, ma infatti, ti ripeto Antonio, anche il problema dei migranti economici va compreso in flussi, perché i migranti economici, ripeto, che hanno un diverso costo di integrazione, nel nostro caso non hanno il capitale umano già accumulato dei siriani, eccetera, eccetera, sono una risorsa di lungo periodo per un paese della demografia nostra, ma sono naturalmente un problema immediato nel breve per le spese necessarie. Quindi per questo dico che ci vuole problema dei flussi. Altri paesi occidentali se li sceglievano per capitale umano, mentre noi non abbiamo mai fatto, neanche con la Bossi-Fini, noi lo sceglievamo con l'idea se hai un lavoro vieni, se no no. E sono tutte questioni irrisolte dalle nostre politiche della migrazione. E mi scuso con Giorgio della Firenze e Oreste della Piacenza, perché naturalmente oggi chiudiamo addirittura prima, e vediamo che cosa avviene. Continuate con Radio 24, appuntamento con me a domani.